Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buonasera cari amiche e cari amici, oggi parliamo di un tema che proprio non si addice alla radio, cioè il silenzio. Ma si occupa di questo tema da un punto di vista particolare una studiosa illustre, un'accademica della Crusca, Bice Mortara Garavelli, che l'affronta nel libro Silenzi d'autore, pubblicato dalla Terza, 142 pagine, 18 euro. Questo libro esamina come il silenzio sia stato trattato in letteratura da particolari punti di vista, per esempio quello della contemplazione, oppure della descrizione dell'indicibile, nella fattispecie la Shoah. E l'autrice offre nel suo libro una cavalcata nella poesia, nella letteratura, dalla Bibbia in poi, che ci invita a riscoprire questa dimensione dimenticata della nostra esperienza e anche dei rapporti sociali nei quali ci troviamo immersi. E ne parliamo adesso con l'autrice. Buonasera a Bice Mortara Garavelli. Buonasera. Bice Mortara Garavelli, allora, come si fa a descrivere letterariamente il silenzio? Ho cercato di mettere insieme alcune, pare che siano un centinaio, io non le ho contate, qualche un lettore mi ha detto che sono un centinaio, alcune di descrizioni, se non proprio descrizioni, anche di menzioni del silenzio tra le migliaia che nella letteratura, per fermarci soltanto alla letteratura italiana e alle letterature classiche greca e latina, che sono come dire, che stanno come nomi tutelari di gran parte della letteratura italiana. Le dicevo, queste che io ho messo insieme sono una piccolissima parte delle possibili menzioni del silenzio, delle menzioni del silenzio che si possono ritrovare in tutta la letteratura. A un certo punto lei in questa carrellata definisce il silenzio come una forma di cancellazione. Il silenzio come cancellazione, scrive, di quanto sia o sembra che parla o scrive peggiore dell'assenza di parole. Cosa vuol dire questo concetto della cancellazione? Io lo dico citando Gregorio Nazianzeno, che dice: parla sì, se hai da dire qualcosa che sia migliore del silenzio. E allora vuol dire quando il silenzio sta al posto di un'enunciazione verbale esplicita, ma con maggiore potenza evocativa, se si vuole, almeno secondo alcuni autori. Invece la più famosa personificazione del silenzio, lei ricorda che la dobbiamo a Ludovico Ariosto. Certo, certo. E la più famosa, direi che ho scelto questa perché sì, ci sono a volerle pescare anche tra gli imitatori di Ariosto dei tentativi di personificazione, ma questa è veramente la personificazione del silenzio, specialmente la sua bellezza è legata alla movenza teatrale che fa sì che il silenzio arrivi dopo una serie di evocazioni dell'ambiente, di quello che sta intorno al silenzio. Tra l'altro, nei versi che lei cita di Ariosto, il poeta, con grande ironia e anche qualche polemica, indica il fatto che il silenzio non si trova più laddove si dovrebbe trovare, cioè nei conventi e nei cenobi. E dove c'è, ma solo per iscritto, rispondono all'angelo che va in cerca del silenzio nei posti dove crederebbe di trovarli, e gli hanno detto ma si accorge che il silenzio non esiste se non per iscritto, perché appunto se lei ha visitato qualche convento troverà nella sala da pranzo dove hanno la pietanza, come dice l'Ariosto, scritto silenzium in ognuna delle stanze da letto, c'era una targa silenzium, non si capiva con chi avrei dovuto parlare, io solo in un letto una piazza, ma comunque era un messaggio. Un grande interprete italiano moderno del silenzio è Carlo Levi, che lei ricorda. Che cosa ci può dire a proposito di Carlo Levi? Il silenzio di cui parla Carlo Levi è il silenzio dei contadini, che sono una specie di distintivo del loro modo di affrontare una vita grama, a quei tempi perlomeno. Devo dire che queste testimonianze di Carlo Levi hanno un importante valore storico, non hanno, mi auguro, un riscontro preciso nella realtà di oggi. Poi c'è un altro Levi, primo Levi. Levi, che invece lei cita circa la dimensione del silenzio dell'indicibile. Certo, certo. Primo Levi è quello che ci ha lasciato le testimonianze letterariamente, diciamo, più toccanti, più pregevoli di quanto il silenzio imposto, anche come una tortura, o comunque accettato e non soltanto accettato ma scelto dagli internati, ecco, di che cosa sia stato e di come abbia concorso anche all'annientamento dell'uomo, proprio perché è stata non solo il tacere per non avere niente da dire, ma per non potere neppure più parlare. È uno degli aspetti dell'annientamento dell'uomo. Infatti a un certo punto Primo Levi dice: mi sono resa conto quanto che nella nostra lingua italiana mancano le espressioni adatte per descrivere l'annullamento dell'uomo. In un altro passo del suo libro lei fa un riferimento, stabilisce un rapporto tra l'ozium e il silentium. Sì, diciamo che il silentium è un aspetto, una manifestazione dell'ozium monacale. E quindi anche lì c'è, nella regola di San Benedetto, il sesto capitolo ha come argomento la taciturnitas, che è lo stare in silenzio. Non è il silenzio è effetto di taciturnitas, ma la taciturnitas è l'atteggiamento di chi sta in silenzio, quel silenzio che si addice alla vita monacale. E poi c'è un ultimo passaggio molto toccante, che sono le parole del Cardinal Martini, che testimonia del suo abbandono quando fu costretto al silenzio dal decadimento fisico. Certo, e il Cardinal Martini davvero dice: non ho paura del silenzio, e questo è il suo... come dire, una specie di motto del cardinale e di sintesi del suo atteggiamento, di questa condizione che gli è imposta da una degenerazione fisica, come succede, come può succedere a tutti. E, però vede un aspetto positivo anche in questa privazione della capacità di comunicare verbalmente. Invece un altro uomo di chiesa, padre Pozzi, e queste sono le righe conclusive del suo libro, la citazione conclusiva, stabilisce un rapporto tra il libro e il silenzio. Beh, questo sì, mi è piaciuto molto e ho trovato che fosse il modo migliore per concludere un libro che certo mediamente non è all'altezza di quanto qui si scrive, ed è molto bella, no? La cella e il libro sono le stanze della solitudine e del silenzio. La cella è la stanza della solitudine e il libro è la stanza del silenzio. E qui c'è uno dei più belli elogi del libro che si possono fare in poche parole, lei l'avrà visto, e dice: il libro, deposito della memoria, antidoto al caos dell'oblio, dove la parola giace, ma insonne, pronta a farsi incontro con passo silenzioso a chi la sollecita, perché la parola, se non è letta viva voce, è silenziosa, parla in silenzio, no? Un libro. Amico discretissimo, il libro non è petulante, risponde solo se richiesto, non urge oltre quando gli si chiede una sosta, colmo di parole, tace. E questo mi è sembrato una bella chiusa per un libro che ha cercato di condensare in poche pagine un argomento immenso, perché il silenzio non è un modo di parlare o di non parlare, il silenzio è un linguaggio da mettere a fronte e a petto del linguaggio parlato, e a volte si è visto che il silenzio è più efficace della parola pronunciata. Grazie a Bice Mortara Garavelli, autrice di Silenzi d'autore. Buona serata. Grazie a lei, buona serata altrettanto. E a proposito di Ludovico Ariosto, del quale abbiamo appena parlato, vi segnalo l'omonimo libro di Luigi Scorrano, che è un docente saggista, pubblicato da EDS, 260 pagine, 12 euro. Questa è una bella introduzione all'Ariosto, di cui parleremo a lungo l'anno prossimo, quando cadrà il 500° della pubblicazione del suo capolavoro, uno dei capolavori della letteratura italiana, L'Orlando Furioso. Qui Scorrano ci offre un punto di vista particolare, ossia quello di un Ariosto urbano e di corte, immerso cioè nel clima affascinante della Ferrara dei suoi tempi, quando la città estense era una delle corti più scintillanti d'Europa. Quella corte, dice l'autore, era il luogo ideale per un uomo come Ariosto, che amava però vedere riconosciuti i propri meriti.

spinge oltre quando gli si chiede una sosta. Colmo di parole, tace. E questo mi è sembrato una bella chiusa per un libro che ha cercato di condensare in poche pagine un argomento immenso, perché il silenzio non è un modo di parlare o di non parlare, il silenzio è un linguaggio da mettere a fronte e a petto del linguaggio parlato, e a volte si è visto che il silenzio è più efficace della parola pronunciata. Grazie a Bice Mortara Garavelli, autrice di Silenzi d'autore. Buona serata. Grazie a lei, buona serata altrettanto. E a proposito di Ludovico Ariosto, del quale abbiamo appena parlato, vi segnalo l'omonimo libro di Luigi Scorrano, che è un docente saggista, pubblicato da EDS, 260 pagine, 12 euro. Questa è una bella introduzione all'Ariosto, di cui parleremo a lungo l'anno prossimo, quando cadrà il 500enario della pubblicazione del suo capolavoro, uno dei capolavori della letteratura italiana, L'Orlando Furioso. Qui Scorrano ci offre un punto di vista particolare, ossia quello di un Ariosto urbano e di corte, immerso cioè nel clima affascinante della Ferrara dei suoi tempi, quando la città estense era una delle corti più scintillanti d'Europa. Quella corte, dice l'autore, era il luogo ideale per un uomo come Ariosto, che amava però vedere riconosciuti i propri meriti. E nelle corti come quella estense si tesseva, maturava l'arazzo prezioso, sempre cito da Scorrano, di un lavoro intellettuale che avrebbe decretato il primato europeo della cultura. Ariosto si definiva servo, proprio per sottolineare questa condizione di cortigiano, un ruolo accettato senza sentimenti di umiliazione, ma con la consapevolezza della propria grandezza e al contempo del proprio ruolo sociale. Scrive infatti l'autore che la condizione servile non umilia chi vive, giova semmai a mettere in luce un pacchetto di qualità da contrapporre a quello del proprio signore. E la vita di Ariosto diventa così il libro su uno dei più belli episodi del Rinascimento, quello nella versione estense ferrarese, oltre che naturalmente il prologo e il riflesso di un poema straordinario nel quale, ci dice Scorrano, ogni idealità si deforma come in uno specchio che distorca le immagini, ma che ne mantenga vivo il desiderio di ricomporle nella purezza delle loro linee originarie. Esattamente coevo dell'Ariosto, infatti era nato un anno dopo del poeta, fu un altro gigante della cultura italiana, questo ancora più poliedrico di Ludovico Ariosto, e cioè Michelangelo Buonarroti, di cui la Fondazione Pietro Bembo e Ugo Guanda pubblicano Il Canzoniere, che è curato in questa edizione da Maria Chiara Tarsi, 314 pagine, 39 euro. Le poesie di Michelangelo sono forse la parte meno nota della sua produzione, ma certo non la meno potente e significativa, e troviamo in questo libro i versi del grande pittore, scultore, architetto, e probabilmente pensati, spiega la curatrice, per una dimensione privata, per una diffusione a pochi amici, con una circolazione ristretta. Queste opere furono scritte soprattutto negli anni fra i 30 e i 40 del 1500 e furono raccolti per la prima volta nel 1546. Tema centrale dei versi di Michelangelo è l'amore, che così la curatrice definisce nella lettura che ne dà il grande artista. L'amore è forza positiva e negativa allo stesso tempo, non solo petrarchescamente ardi e agghiaccia, ma salva e condanna. Quello di Michelangelo è un amore ormai senile, quindi, spiega sempre la curatrice, interpretato in chiave morale, come passione dannosa per l'anima. Ma la difesa, aggiunge, non è possibile, perché il sentimento è profondamente radicato nell'esistenza del poeta. E c'è anche un riferimento tra i versi a una sua opera, perché un amico loda la statua della notte scolpita per le tombe Medice di San Lorenzo, e Michelangelo risponde con quattro versi tra l'ironico e il distaccato, che fotografano bene la personalità complessa del grande artista. Dice infatti Michelangelo: caro me il sonno e più l'esser di sasso, mentre che il danno e la vergogna dura. Non veder, non sentirmi gran ventura, però non mi destar de parla basso. E al secolo scintillante al quale appartengono Ariosto e Michelangelo appartiene un altro grande protagonista, Leonardo da Vinci, che troviamo oggetto delle cure di Pinin, Brambilla Barcilon, la grande restauratrice che è intervenuta per ultima sull'Ultima Cena, che adesso ha scritto La mia vita con Leonardo, è pubblicato da Electa, 118 pagine, 19,90 euro. L'ultimo restauro del Cenacolo risale al 1999, quando fu concluso, e quell'anno appunto fu riaperto il Cenacolo dopo un intervento che era durato circa 20 anni. E qui nel libro la Brambilla ci parla proprio di questo incontro con Leonardo, di questa lunga frequentazione con Leonardo, approfondita dal minuzioso esame fatto sui ponteggi prima ancora di avviare i lavori, un esame che aveva consentito alla restauratrice di cogliere, come ci spiega, le intuizioni, i tentativi di Leonardo di tradurle in pittura. Quello della Brambilla fu un lavoro sorprendente che riservò appunto molte scoperte che modificarono alcune letture tradizionali dell'affresco, per esempio nello sfondo che dal restauro del Settecento era stato fortemente alterato. Insomma, ne uscì un cenacolo restaurato, ma soprattutto un cenacolo riscoperto. Non fu un lavoro facile, naturalmente, e qui la Brambilla ci descrive le difficoltà incontrate, le difficoltà di ordine burocratico, istituzionale, talora anche finanziario, che la fecero in certi punti addirittura infuriare. E quindi questo, presentata nel libro, è una storia affascinante nella quale l'autrice non nasconde anche le difficoltà psicologiche a misurarsi col capolavoro, che si concludono con una domanda sulla quale finisce il libro: che cosa avrebbe pensato Leonardo del lavoro che è stato fatto sul suo capolavoro? Una domanda alla quale l'autrice non risponde, sottolineando l'impegno di questa impresa per tenere uniti i frammenti di Leonardo e poterne percepire interamente, come ci scrive, l'autentica intensa rivelazione. E a questo punto la linea all'informazione sul traffico.